I 100 secondi di Radio 24, il Sole 24 Ore, con Sebastiano Barisoni. Della Fiera Internazionale del Cibo e delle Bevande che si è aperta ieri a Milano, si chiama Tutto Food, si parla e si è parlato quasi esclusivamente per la presenza che avrà oggi di Barack Obama e per il suo arrivo ieri a ora di pranzo a Milano. In realtà la fiera, che deve rappresentare la vetrina di quello che è il settore agroalimentare italiano, ha più di un elemento di interesse. Al di là del numero di espositori e soprattutto della presenza molto forte di quelli esteri, dalla prima giornata di lavori sono arrivate due indicazioni degne di nota. La prima riguarda la conferma che i ministri Maurizio Martina e Carlo Calenda hanno inviato alla Commissione europea un provvedimento che riguarda il riso e la pasta italiana, ossia sarà obbligatorio la dicitura del luogo di coltivazione, di lavorazione e di confezionamento. Questo per ovviare e in qualche modo rimediare al problema causato da Bruxelles stessa, in quanto la riduzione o eliminazione dei dazi del riso proveniente da Vietnam o Thailandia ha generato un boom delle importazioni dai paesi asiatici, con il rischio che venga spacciato per riso italiano. Il secondo elemento riguarda le strategie di posizionamento dei nostri prodotti adottate per il mercato statunitense, che è il terzo mercato per importanza del nostro agroalimentare, il primo fuori dall'Europa. Avere chiuso con successo 10 accordi con i 7 più grandi distributori americani, l'ultimo dei quali è il colosso Walmart, ha permesso di introdurre 368 nuovi fornitori e 1200 nuovi prodotti italiani sugli scaffali della grande distribuzione americana. E ogni tanto una buona notizia. I 100 secondi di Radio 24, il Sole 24 Ore, con Salvatore Padula. Molti economisti ritengono che tra le cause della prolungata fase di stagnazione dell'economia del nostro paese, che cresce poco e quando lo fa a malapena arriva all'1%, ci siano anche le difficoltà a rilanciare gli acquisti delle famiglie. A confermare la debolezza dei consumi arrivano oggi i dati diffusi dall'Istat. Nel mese di marzo le vendite al dettaglio sono scese dello 0,4% in valore e dell'1,4% in volume rispetto all'anno precedente. È vero che i due periodi non sono perfettamente confrontabili, perché a marzo 2016 includeva le vendite di Pasqua, che quest'anno invece andranno a pesare sul mese di aprile. Anche tra febbraio e marzo di quest'anno anno le vendite restano però stabili, un'altra conferma di questo scenario improntato a una persistente debolezza. Qualche piccolo segnale, ma forse più legato alla dinamica dei prezzi che non alla dinamica dei consumi, arriva guardando i primi tre mesi dell'anno. Le vendite al dettaglio sono cresciute dello 0,7% rispetto al primo trimestre del 2016, ma va detto che i volumi sono anche qui rimasti stabili. Bene, allora, quali indicazioni trarre? Beh, di sicuro il 2017 non sarà, come alcuni prevedevano, l'anno della ripresa dei consumi. E sarà un tema che il governo non potrà non affrontare in autunno, quando dovrà mettere a punto la manovra per il prossimo anno. Si discute di taglio del cuneo fiscale, un po' meno si parla ormai del taglio dell'IRPEF, ma insomma è evidente che qualche cosa si dovrà fare. Seguici dal lunedì al venerdì su Radio 24 e RDS e in video su radio24.it e rds.it.